Milan, dai, veloce uscire dal bagno che sta iniziando la sigla. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Le scarpe mi stanno strette. Leonardo fa la spesa. Il pappagallo è rosso. La farmacia è aperta. L'aquila vola. Mario ha la newsletter. La mucca non dà latte. Ebbene sì, cari ascoltatori. Siamo qui da Radio Viale Monza, dalla ridotta di Viale Monza, in diretta anche oggi per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan con il nostro Mario Calabresi. Mario, buongiorno. Buongiorno a voi. Poco istituzionale come messaggio di Radio Londra, Mario, alla newsletter, però insomma si capisce cosa vuol dire. Siamo qui, cari ascoltatori, 800 24 00 24, chiamateci per raccontare le vostre giornate. Se siete al lavoro, se vi muovete, ditecelo anche al 349-238-6666. Fammi salutare tutta la redazione, dall'Alpino in regia a Claudia Schiattone che oggi ci aiuta insieme ai nostri Lorenzo Nespoli, Miran Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Siamo tutti qui. E caro Mario, sai che abbiamo iniziato da ieri a chiamare idealmente dal suo balcone Raffaele Kohler, che torna con noi. Raffaele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Piacere. Perché la sua tromba ha fatto il giro di Milano e anche del web per rallegrare un po' la giornata, anche se ovviamente sì, c'è poco da stare allegri, però è giusto anche nelle difficoltà trovare il modo, no Mario, per andare avanti. È giusto, gli ultimi due giorni sembrano essere stati forse i giorni più duri e più faticosi, perché c'era stata questa illusione che questa settimana avremmo visto dopo mercoledì scendere il numero dei contagi, il numero dei morti, invece il numero dei morti è tragico, altissimo. Io credo che la cosa che più ha colpito tutti e che c'è entrata dentro sono quei camion militari che trasportano le bare, che vanno a fare le cremazioni in giro per altre regioni, che partono da Bergamo. Questa cosa qui e l'altra, questi i morti soli, le famiglie che vengono a sapere che non sanno più nulla e ricevono poi la comunicazione che il loro caro, un padre, uno zio, un marito, un nonno, non c'è più e non ne sapevano niente. Questa solitudine doppia di chi muore da solo e dei parenti che non riescono a fare nulla, secondo me ha molto colpito. Sì, a me ha colpito. Il clima del paese è abbastanza pesante in questo momento. Questo estremo saluto hai letto tramite la tecnologia, l'estremo saluto con l'iPad. Per carità, la tecnologia sì, aiuta, ma in certi casi che lo appoggia sul. Sì. Sì, in certi casi insomma il contatto fisico, che adesso è limitato, è da sempre una cosa importante. Però Raffaele Kohler, tra l'altro, noi oggi alle 11, come tante radio in Italia, ci uniremo e trasmetteremo canzoni italiane iniziate e introdotte dall'inno di Mameli. Allora Raffaele, so che oggi proprio vuole iniziare così, insomma, con una interpretazione alla tromba del nostro inno. Mi sembra la cosa giusta, Raffaele? Diciamo un inno blues, nel senso di blues, di triste, un inno triste, però che darà, speriamo, un po' di speranza, ecco, quello, a continuare a... Sì. A sperare. Vai Raffaele, vai. Thank you. Grazie Raffaele, perché anticipa l'emozione che vivremo alle 11 con la trasmissione in diretta di tutte le radio italiane, tutti i più grandi network. Ci sarà anche Radio 24 e l'Inno di Mameli. Ma noi, Raffaele, dobbiamo fare una grande sorpresa, perché io voglio salutare, e la saluto con un calore e un affetto particolare, la signora Gemma Capra, la mamma di Mario Calabresi. È un po' un effetto. La maestra Gemma. La maestra Gemma. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno maestra, abbiamo... piacere. Ciao Raffaele. Ciao. Ciao. Bellissima questa cosa, perché io insegnavo religione, storia delle religioni, educazione civica, ma quello che veramente volevo insegnare ai miei alunni era la gioia di vivere e dello stare con gli altri. Ce l'ho messa tutta questa. E quindi sapere che Raffaele dava, cioè, ci mandava questa gioia con mia bella Madonnina, non so, mi fa illudere che qualcosa di quell'insegnamento gli sia rimasto dentro. Mi piace pensare così, perché in effetti io ho avuto tantissimi alunni, perché facendo appunto, insegnando la religione, ogni anno ne avevo di nuovi, ne ho avuti centinaia. E pensate che io, siccome vivo sempre nella stessa zona, incontro sia i genitori degli alunni, anche loro diventati anziani con me, incontro i miei alunni che hanno figli, al supermercato, per la strada, in posta, e quindi è una cosa bella, mantengo questo rapporto, emozionante. Beh, volevo dirle, signora Gemma, che Raffaele non sapeva nulla assolutamente di questa sorpresa. Grazie del piacere, veramente. Alla fine di questa un po' reclusione, per me poi soprattutto io sono molto ligia e quindi non esco perché sono a rischio, sono anziana, e quindi cerco di rispettare tutte le regole. Però non vedo l'ora che si torni nelle strade a incontrarsi, e spero proprio che sarà una festa. Ecco, quindi io vorrei proprio dare un messaggio di capire quanto gli altri siano importanti per ognuno di noi. Questo è... Ma questo è sicuramente così, e spero che questa festa potrà essere introdotta magari dalla tromba di Raffaele Kohler, ecco, che possa essere davvero bellissimo. Ma Raffaele, io spero di incontrarti dopo. Assolutamente, guarda, ci conto con tutto il cuore, veramente sarà un vero piacere rincontrarti. E veramente hai riportato ai bellissimi tempi delle elementari, veramente. Delle elementari, che sono così belli, magici, è vero, ma anche per noi maestre. Infatti io avevo un ricordo bellissimo, infatti mi era rimasto in ringrazio. Noi signora Gemma la ringraziamo davvero con tutto il cuore. Dico, magari quando è finita la rincontro anch'io, perché devi sapere che mia madre è talmente ligia che ha proibito a me, ai miei fratelli e ai suoi figli di andare a trovarla, perché dice no, perché poi è sbagliato, hanno detto di no, di tenere le distanze, per cui se uno la va a trovare tipo le porta la spesa, la lascia sul pianerottolo, la saluta, lei ti saluta e via andare. Quindi Raffaele, se magari andiamo insieme quando è finita a conoscerla, penso che dovremmo far così un po' tutti, anche se è faticoso, molto faticoso. Credo di sì, che il messaggio sia quello giusto. Noi signora Gemma la ringraziamo davvero di cuore per essere stata disponibile a questo incontro virtuale. Ci incontreremo presto, quando Milano e tutta Italia, certo si guarda Milano, si guarda le città più colpite, potrà tornare a riappropriarsi proprio della vita e dei propri spazi. Grazie davvero alla signora Gemma Capra, grazie a Raffaele Kohler, ci sentiamo magari lunedì, non lo so, noi continuiamo poi, come volete poi... Noi a me fa piacerissimo, perché per il momento sono qui da solo in casa, appunto per la mia famiglia è da un'altra parte adesso, però scelte così, quindi il mio unico contatto con l'esterno è o attraverso il telefono, attraverso la finestra o attraverso, insomma, chi vuole sentire la mia musica, ecco. Quindi mi sembra bellissimo. Mi sembra bellissimo. Allora dai, noi iniziamo con abbiamo fatto questa sorta di pre-inizio, vai con Conte, con l'entusiasmo, e vai con le considerazioni che dobbiamo fare, Alpino. Enthusiasm about the future, 'cause I'm a sad, sad post-jingle. Allora Mario, tra l'altro mi ha colpito oggi il titolo di Repubblica Milano resisti, ma ti chiedo questa, quanto c'è di, lo dico proprio in maniera polemica anche, quanto c'è di retorica in tutto quello che sentiamo intorno, le cinque giornate di Milano, la resistenza, io stesso faccio Radio Londra, mi si permetta insomma qualche, come dire, qualche battutina, ecco, per cercare di sdrammatizzare una situazione che drammatica lo è per certi versi. Cioè, quanto dobbiamo incorrere e continuare con questo tipo di immagini, o quanto secondo te invece sono efficaci, sono vere, sono giuste? Ma diciamo una cosa, che forse è la prima volta che comunque sia, io sono sempre stato critico su, e ho sempre cercato di evitare per quanto possibile l'uso e l'abuso di tutte queste forme retoriche, e di solito le forme retoriche che usa il giornalismo, soprattutto nelle titolazioni, tendono a enfatizzare e ingrandire fenomeni che lo sono molto meno. Questa volta qui purtroppo siamo in una situazione talmente eccezionale e inedita che mi sembra che la realtà, ahimè, è più grande anche dei titoli che cercano di descriverla. Milano resisti, sì, è un modo di dire che la condizione oggi è di sofferenza, e la condizione è di grande sofferenza. Quel titolo non sta facendo un spesso uno vede quei titoli lì, poi però la gente è tranquilla, eccetera, eccetera, dice vabbè, ma non mi riguarda. No, ahimè, questo titolo riguarda esattamente tutti. Tra l'altro, a proposito di balconi, tu nella tua newsletter, voglio ricordare, mariocalabresi.it, oggi hai voluto raccontare lo sguardo attraverso quattro fotografi, che sono però paradossalmente anche loro limitati. Il fotografo deve andare in giro, deve raccogliere storie, deve muoversi, e invece che cosa possono raccontare adesso? Io infatti ho chiesto a una serie di fotografi con cui ho lavorato negli anni, sono tipo Francesco Zizzola, che è uno che ha vinto 10 WordPress foto andando in giro per il mondo, o Pietro Masturzo, un altro grande fotografo, gli ho chiesto: fotografate quello che anche per voi, come per tutti noi, è il punto di vista, le finestre, gli altri, la nostra vita. In un certo senso noi stiamo vivendo alla finestra, cioè quando uno dice sto alla finestra, cioè sto in attesa, noi viviamo in attesa, in attesa che riparte, in attesa di avere notizie. E quindi ognuno di loro ha fatto 3 foto, e oggi la newsletter è solo di foto, di pensieri loro, 3 foto ognuno di loro, in cui appunto mostra come stiamo vivendo alla finestra. Ci sono quelli appunto che più attivi, ci sono quelli che guardano sì e no, c'è chi si riflette nelle finestre. Poi ho cercato di fare una cosa in cui c'è sia Milano che Roma, c'è Catania e Pescara in questo numero, perché alla fine è una condizione di tutti. Milano, naturalmente, noi abbiamo, la Lombardia ha 2/3 dei morti, però questa cosa qua nessuno ne è fuori, come nessuno ne è fuori in Europa. Vediamo cosa sta succedendo a Madrid, o il caos che sta partendo negli Stati Uniti. Sì, tra l'altro si parla di esercito, tu hai citato questa immagine che sicuramente quando finirà tutta questa vicenda sarà una delle immagini simbolo, quella carovana di convogli militari che a Bergamo caricano i feretri per portarli in altre città, perché lì ovviamente il forno crematorio non regge più ai ritmi necessari. Vogliamo sentire il presidente della regione Fontana, regione Lombardia, che sembra quasi disperato nei suoi appelli sempre più accorati a dire state a casa. Che le norme che già sono state fatte vengano rispettate seriamente e severamente. Quindi ho chiesto che ci sia l'intervento dell'esercito per dissuadere, per far capire alla gente che non possiamo più scherzare e non possiamo neanche più essere buoni. Dobbiamo costringere la gente a rimanere a casa. Basta corse, basta biciclettate. Costringere le persone a stare a casa, e per questo si è evocato anche l'utilizzo dell'esercito, no, vicenda strade sicure. Tra l'altro ti è colpito, Mario, che leggere che arrivano i medici dalla Cina, adesso arriveranno i medici da Cuba, qualcuno ha ironizzato su questo, e dalla Cina ci dicono no, qua non state facendo le cose come si deve, dovete darvi una regolata. Ci sono delle, bisogna stare attenti a una cosa, ci sono dei fatti reali a cui bisogna mettere mano. Per esempio, l'abbiamo visto l'altro giorno, hanno ridotto le corse dei mezzi pubblici, metropolitana, sì, autobus, eccetera, eccetera. E questo fa sì, per esempio, che nelle prime corse del mattino, alle 6, alle 7 del mattino, ci siano tantissime persone che vanno a lavorare, sono quelli che ancora lavorano nelle, non so, nelle imprese di pulizia, di quelli che devono fare i lavori appunto per rendere sani gli ambienti, piuttosto che nelle fabbriche, e questa è gente a cui hanno tolto le corse la mattina e si trovano a questi vagoni di metropolitana troppo pieni, troppo gremiti. Cioè bisogna levare le corse, ma con intelligenza, cioè lasciandole lì, perché questa povera gente che va a lavorare e che magari ha riuscito a ottenere di stare in sicurezza sul luogo di lavoro, poi però stanno tutti insieme nel vagone della metropolitana. E questo, per esempio, è un tema reale. C'è un po', io non sono di quelli che vanno a correre, e devo dire, l'ho presa sul serio, non mi muovo di casa, però mi sembra che sia un pochino anche eccessivamente ideologico. Sì, c'è della gente che corre, però non è che sono così tanti. Detto questo, poi vedi quelli che ieri hanno fermato a Roma al parco della Caffarella, che avevano organizzato, sì, la partita di calcetto, e allora a quelli lì gli sta bene una multa, e anche, diciamo la verità, educativa, perché l'idea insultante un po' è che ci sia ancora qualcuno che l'ha presa come una grande vacanza, mentre in tanti posti la questione è una situazione disperata. Allora, io voglio salutare il nostro primo ospite, perché quando si parla dell'utilizzo dell'esercito, voglio dire, e oggi per esempio l'apertura del Corriere è su questo con il titolo principale, significa che la situazione è sicuramente seria. Uno che l'esercito lo conosce, visto che è stato capo di Stato Maggiore dell'esercito, oggi è membro del direttivo dell'Istituto Affari Internazionali, è il generale Vincenzo Camporini, che è con noi. Buongiorno, generale, grazie. Buongiorno, capo della difesa, non dell'esercito. Capo della difesa. Sì, mi perdoni. Le chiedo questo: cosa significa impiegare l'esercito? Cosa davvero può fare l'esercito in questa situazione? Questa è una forza lavoro estremamente qualificata e preparata, pronta all'impiego in qualsiasi circostanza. Tant'è che tra i compiti istituzionali delle forze armate, oltre alla difesa degli stati confini, alla difesa del territorio, alla partecipazione alle operazioni di stabilizzazione internazionale, c'è il supporto alle autorità civili in caso di emergenza. Qualsiasi emergenza, quindi terremoti, l'abbiamo visto tante volte, alluvioni, e questa purtroppo è un'emergenza ancora più grave, in cui le forze armate sono pronte a dare il loro contributo, ripeto, anche molto qualificato. Perché? Perché fra le operazioni militari a cui si stanno addestrando da sempre, ci sono anche quelle in un ambiente contaminato dal punto di vista nucleare, chimico o batteriologico. Quindi ci sono delle procedure che sono approvate, a cui la speciale si addestra, che sono particolarmente indicate per le vicende che stiamo vivendo. È chiaro però che tutto questo deve avvenire sotto la supervisione dell'autorità civile preposta, perché le forze armate intervengono in supporto, quindi non devono essere caricate della responsabilità della gestione. La gestione deve rimanere, anche dal punto di vista, se diciamo, politico istituzionale, nelle mani dell'autorità civile che ha la responsabilità. Che effetto le ha fatto, generale, vedere quel convoglio a Bergamo, un convoglio militare che porta via i feretri dalla città? Una visione veramente terribile. Non credo che lo saremmo mai immaginato in tempo di pace una cosa del genere. Purtroppo un tempo di pace particolare, perché se vogliamo questa è una vera e propria guerra, una guerra che richiede comportamenti anomali rispetto alla vita normale. Mario, tu cosa pensi della questione dell'utilizzo dell'esercito? Perché molti parlano anche di compressione dei diritti fondamentali, dei diritti costituzionali, la libertà di movimento. C'è, diciamo, c'è effettivamente. Che L'esercito è stato utilizzato in questi anni tantissimo in una maniera che non eravamo abituati. Se noi ci pensiamo, 10 anni fa, 15 anni fa, non era neanche immaginabile vedere l'esercito per le strade. Oggi lo siamo abituati a vederlo, lo vediamo nelle stazioni, lo vediamo nelle piazze, diciamo così, è stato utilizzato per la sicurezza di fronte alla paura degli attentati islamici e del terrorismo. E quindi in un certo senso siamo abituati. Se questo serve, non mi spaventa di per sé e non mi inquieta di per sé la presenza, se serve di aiuto, di supporto, trovo un po' eccessivo questo richiamo roboante, arriva l'esercito, perché lì lo si carica invece di una valenza che non è quella, che mi pare sia quella corretta. Sì, anche perché il generale, ce lo sta dicendo lei, generale Camporini, comunque l'esercito è un elemento di supporto, ma è l'autorità civile quella che prende le decisioni finali, no? Assolutamente, sono i prefetti in questo caso che hanno il controllo delle risorse disponibili, tra cui anche le forze armate con le loro specialità. Ma lo vediamo nelle stazioni, ovunque vediamo che per una pattuglia di militari è sempre accompagnata da un poliziotto, da un non agisce in autonomia. No, assolutamente no, non agisce in autonomia, anche perché ci sono delle competenze di legge che sono state recentemente allargate, ma l'ufficiale di polizia giudiziaria non è certo il militare, quindi la presenza di un carabiniere, di un poliziotto diventa indispensabile per alcune delle funzioni. È chiaro che l'identificazione si può fare, ma altre cose non si possono fare, le può fare soltanto il carabiniere. Certo, quanti uomini sono secondo lei disponibili da mettere sul campo, mettere nelle città per soprattutto fare i controlli? Uomini dell'esercito sto parlando. Esercito, marina e aeronautica, non dimentichiamoci anche le altre forze armate che hanno una forza lavoro particolarmente qualificata e disponibile. In totale le forze armate hanno 150.000 uomini, anzi qualcosa di più, tendono ad andare a 150.000 in base a una recente legge. 150.000 uomini, ce ne sono quelli che sono impegnati all'estero, e qui io farei una piccola riflessione se non è il caso in questa temperie di ripensare un attimino alle forze che abbiamo giocate alle missioni all'estero. Abbiamo questo ospedale in Libia, tanto molto bene, però forse è il caso di ripensarlo, insomma. Quanti in totale? Lei consideri che oggi credo che siano impiegati fino a 7.000 uomini, si può tranquillamente raddoppiare. È chiaro che sono turni abbastanza pesanti, ma siamo abituati a turni pesanti. Sì, questo sì, insomma, potrebbe essere 14-15 mila uomini da mettere sulle strade italiane per cercare di porre un argine a questa situazione. Noi, controllare quello che succede, diciamo, e in qualche modo convincere la gente a rispettare le regole che vengono emanate. Poi se queste regole sono intelligenti o meno, non sono certo io. Non aspetta certo a lei. Intanto la ringraziamo molto, generale Vincenzo Camporini. Qui grazie per essere stato con noi, l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, Mario Calabresi, per salutarci. Poi ci sentiamo settimana prossima, quando vuoi, tanto quando vuoi. I balconi ci sono. Le regole, no? Sai che tantissimi ancora scrivono a dire: ah, ma svegliatevi, ci vogliono rinchiudere. Addirittura qualcuno dice ci vogliono rinchiudere nei campi di concentramento, veramente il lume della ragione che viene buttato all'ammasso così, ci vogliono limitare le libertà costituzionali, ci vogliono comprimere nei diritti. Io dico, ragazzi, questa cosa qua, ci ho pensato, il problema è che non hai la libertà, tu puoi fare un po' quel che ti pare, ma non hai la libertà di far danno agli altri. Non hai la libertà di ammazzare gli altri. Allora, andare in giro oggi significa farsi potenzialmente veicolo di contagio. Allora, io forse ho parlato troppo in questo periodo con anestesisti, medici, rianimatori dentro gli ospedali. E quello che ti raccontano è terribile, è catastrofico. Allora, questa libertà, francamente, la libertà di far male agli altri, non è che uno ha la libertà di tirare pietre in mezzo alla strada o di investire i passanti, ecco, quindi quella libertà lì no, non c'è. Non c'è assolutamente, sono d'accordo. Leggete i reportage di Bergamo, della Bergamasca, del Bresciano, dove non c'è una persona che non conosca un parente, uno stretto congiunto che non sia malato, e poi dopo forse cambierete idea. Mario, ti ringrazio moltissimo. Sentiamo. Buona giornata, buon weekend, buon fine settimana a tutti. Niente scampagnate, mi raccomando. Si sta esatto. A casa. Grazie a Mario Calabresi. Ciao, ricordate, MarioCalabresi.it, c'è la sua newsletter con tante belle storie. Noi andiamo un attimo in pubblicità. State ascoltando un programma offerto da. Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao Milan, ma se continuiamo a dire che i morti sono tutti anziani, i giovani se ne fregano e continueranno a uscire. Ciao a tutti. Buongiorno Milan. Visto che la radio funziona comunque bene anche se trasmetti dal tuo balcone, perché non lo fai anche settimana prossima, così stiamo tutti a casa? Grazie e buona giornata. È una proposta concreta dell'ascoltatrice e probabilmente sarà così, non lo so, vediamo, la situazione va in evolversi minuto per minuto. Cari ascoltatori, siamo qui in diretta da Radio Viale Monza, dalla ridotta di Viale Monza. Mi vorrei collegare con la ridotta di Piazzale Udine, dove c'è Vestagliona Leonardo Manera. Vestagliona? L'ho fatto anch'io, l'inno. Signori, in attesa dell'inno delle 11, che sarà suonato, per concedimi, un pochino meglio. L'ho fatto con l'armonica a bocca non tonale, cioè non quella che puoi fare tutte le note. Ma infatti sei stato bravissimo. Io fossi stato in alpino ti avrei mandato anche degli applausi a scena aperta. Ecco, sì, sono arrivati un po' in ritardo e leggermente chiamato. Come stai, Vestagliona? Tutto bene? Ma sì, siamo qui, ho appena fatto una corsa, sono rientrato adesso, sto bene. Non è vero, ci credono, mi insultano. Nella tua reggia, nel tuo parco, nel mio parco privato. Sì. Certo. No, sono qui in vestaglia, in pigiama, ho bevuto il caffè, non mi muovo. È anche vero, come diceva anche Calabresi, che adesso non è che è tutta la colpa del mondo e dei runner, di quelli che vanno a correre, no? Cioè, sì. Abbiamo trovato i nuovi colpevoli del mondo, sono quelli che vanno a correre, no? No, ma noi italiani siamo un po' così. Certo, c'è da dire, i runner stiano attenti, perché se si prendono una storta e poi devono andare al pronto soccorso, non è il momento di intasarli. Però sì, guarda che abbiamo un'autorità qui in merito, che ci deve dire tutto, perché tu già in Vestagliona hai un'immagine pessima. Io la vorrei sottoporre, questa immagine, so che vi conoscete anche, l'immagine di Leonardo Manera in vestaglia a Yuri Checchi, un grande atleta olimpionico, plurimedagliato. Yuri Checchi, buongiorno. Buongiorno a te, ad ascoltatori, non a Manera, che il pensiero di vedere in vestaglia. Ma io sono molto erotico con la mia vestaglia. Ci sono donne che pagherebbero per vedermi in vestaglia. Sì, meno male che sono uomo. Felice di essere un po' uomo adesso, ecco. Stupendo. Allora, no, Yuri Checchi, la questione è molto seria. Noi abbiamo chiamato un grande atleta, uno che forse senza l'allenamento non potrebbe stare neanche un giorno, no? La cura del corpo. Però che si fa, Yuri? Qual è il giusto limite da non superare mai? E cosa pensi del dibattito che c'è sui runner, su coloro che fanno sport? Beh, intanto io penso, sarà scontato, ma che è una situazione davvero di grave criticità sotto tutti i punti di vista, e la responsabilità, diciamo, comune e personale deve essere quella di stare a casa, punto e basta. E te lo dice uno che invece poi con queste giornate fare una bella passeggiata in bici sarebbe davvero l'ideale, però non si fa, punto e basta, per rispetto non tanto di noi stessi ma per gli altri. E quindi questo credo che sia, lo fate, ma va bene ricordarlo, fondo è un sacrificio limitato, ecco, non è che ci hanno chiesto di andare, cioè, dobbiamo stare a casa e riscoprire anche nella criticità alcune buone cose della casa, come per esempio avere più tempo per dedicare al proprio corpo. Ogni casa può diventare una palestra, dalla più grande alla più piccola. Io ho la fortuna di avere una casa molto spaziosa, una piccola palestrina anche in casa, e quindi sono fortunato, ma ogni casa, una sedia, un tavolo, il tappeto può diventare una palestra. Ci sono tante opportunità, ormai anche in rete, molte cose sbagliate, molte cose giuste, per come mantenersi in forma, ecco. Cioè, per fare gli addominali, i piegamenti, le flessioni, non c'è bisogno di una palestra, non c'è bisogno di no? Assolutamente. Senza essere disfattista, vorrei dire che anche quello può essere rischioso. Ieri ho fatto 150 salti con la corda, mi stavo sentendo male, poi magari devo chiamare gli assistenti sanitari, perché, cioè, se non avete mai fatto sport prima, non mettete a fare sport esagerati neanche in casa, sennò dovete intasare il pronto soccorso perché vi sentite male, questo. Anche se ora prendere come riferimento dell'attività sportiva Manera mi sembra un po' fuori luogo, sembra un po' esagerato. Anch'io non sono un'autorità. Senti Iuri, c'è questo grande tema. Allora, per esempio, il mondo del calcio, ho visto che i calciatori sono spaventati. C'è un calciatore, Thiago Silva del Paris Saint-Germain, che ha detto: non c'è cibo a Parigi, vado in Brasile. Higuain è andato in Argentina. E però c'è il grande tema delle Olimpiadi. Ma voi vi immaginate le Olimpiadi con tutto quello che sposta di cultura, di sport, di interesse? Che succederà alle Olimpiadi, Iuri Chechi? Io sono basito dall'atteggiamento, io sono l'ultimo degli statisti e di quelli che può e deve prendere decisioni, ci mancherebbe, però basito dall'atteggiamento così. Capisco gli interessi miliardari che muove l'evento sportivo più importante del mondo come i Giochi Olimpici, e lo dice uno che ha vissuto per le Olimpiadi e ha fatto di tutto per partecipare e vincere le Olimpiadi. Però davvero questa presa di posizione ancora nel dire si faranno mi sembra davvero anche poco rispettoso rispetto alla situazione che sta vivendo ormai il mondo. In ritardo alcune realtà sportive, fra cui quello del calcio, che io per molte volte ho criticato e credo che abbia anche all'inizio sbagliato il calcio italiano, l'ha capito un po' in ritardo, però il calcio internazionale per esempio ha rimandato gli europei l'anno prossimo, decisione più che logica, più che giusta, anche un segnale. Ecco, continuare a dire che le Olimpiadi si faranno, e ho sentito anche oggi il presidente del CIO in accordo con tutti i membri e tutti i vari presidenti dei comitati olimpici che si faranno, mi sembra davvero un po' fuori luogo. Ecco, sarebbe saggio secondo me cominciare a dire che c'è un piano B, perché non lo so se io fra 3 mesi e mezzo riusciremo, sarà diciamo logico portare 10.000 atleti in un unico villaggio di tutto il mondo, milioni di persone, sono i giornalisti, le delegazioni, certo. Non lo so, mi sembra stiamo facendo tutti un sacrificio, insomma, enorme, l'Italia forse più di altro, anche se io ora apro una parentesi, perdonatemi questa cosa, fammela dire Alessandro, perché ogni volta che sento parlare di modello italiano nella crisi, nella gestione della crisi, io non mi irrito, mi dispiace che staremo anche, la stiamo affrontando, ma per rispetto alle 4.500 famiglie che hanno perso un caro, sentire parlare di modello italiano un po' mi disturba, devo dirti la verità, perché saremo anche bravi, ma lavoriamo, lavorate, noi facciamo il possibile perché la cosa si risolva, però parlare di modello mi sembra un pochino eccessivo. Sì, il tema è molto interessante quello che dice Iuri Chechi, si parla e molti giornali oggi lo sottolineano, modello italiano, siamo a un numero di vittime superiore a quello della Cina, allora ecco. Per carità, forse siamo stati anche molto sfortunati e molto colpiti, però effettivamente per rispetto di tutti coloro che hanno perso dei cari, è un modello un po', non so, a metà, ecco. Sì, esatto, oppure ripeto, non c'è bisogno di enfatizzarlo come hai detto te ogni giorno. Io ogni giorno, come tanti, seguo la conferenza stampa della protezione civile, mi interesso, è davvero, stiamo vivendo un momento unico purtroppo, dove siamo tutti in piccola parte o in grande parte protagonisti e tutti possiamo fare la nostra parte, però seguendo questa conferenza stampa ogni volta si parla di questo modello italiano. E però poi dopo il modello italiano, anche ieri 427 morti, e il totale più della Cina, ci sono paesi che hanno affrontato in maniera diversa, tipo la Corea, e le cose sono andate in maniera diversa, questo non sto criticando, anzi, sì, sì, sì. però dice che le cifre però fanno, ti fanno dedurre che ecco. Beh, c'è un po' di enfasi, è vero, anch'io condivido, c'è un po' di enfasi su questo modello italiano, insomma. Ma per esempio molti dicono anche che l'andrà tutto bene, bello, gli striscioni, le scritte, però a un certo punto uno dice sì, andrà tutto bene, però appunto teniamo conto che quando finirà tutto conteremo anche un numero di morti, cioè andiamo a dirlo a quelle persone, andrà tutto bene. Ma io in realtà penso che non ci sia ancora davvero, forse in Lombardia, ma nel resto d'Italia, vivo in Toscana, poca la percezione di quello che stiamo vivendo. Ho sentito prima, vi seguivo come sempre, non è piaggeria la verità, ma quelli che hanno organizzato una partita di calcetto, ho sentito bene? Da qualche parte? Sì, sì, a Roma. Ecco, cioè, capisci? Ecco, forse non c'è ancora davvero purtroppo la percezione di quello che stiamo vivendo e quanto noi però possiamo essere protagonisti nel soprattutto determinare i tempi di uscita di questa criticità, perché noi ne usciremo, questo è sicuro. E il problema è quando. Il quando, secondo me, dipende molto dai nostri atteggiamenti. E quindi sembra davvero assurdo sentire che ancora persone organizzano delle partite di calcio insieme. È così. O anche grigliate di gruppo. Ieri c'era la notizia di una grigliata di quello gruppo di 30 persone. Sì. Yuri Checchi, ci vuoi dare un consiglio finale o vuoi dare un consiglio finale agli italiani? Ecco, stare a casa, siccome hai detto molti modelli sono sbagliati, in altri casi si prendono informazioni giuste, com'è che uno si può fare informare per tenersi in forma e si può informare correttamente a capire dove attingere le informazioni giuste? Allora, io posso dirvi cosa non devono fare gli italiani per avere notizie, per tenersi in forma e chiamare Manera o fare quello che fa Manera. Ecco, sì, questo non lo fa. Io ho il mio piano, poi lo dirò. Ecco, questo... No, per il resto, no, meglio non scherzo, perché ho la presunzione di considerarlo un amico. Quindi, insomma, chi ci ascolta lo deve sapere. Ecco. Certo, però, certo. Però, no, ma davvero è importante in questi giorni organizzarsi. Io lo so, guarda, la cosa strana è che non sono abituato ad avere così tanto tempo per stare a casa e certe volte dico, ma sì, mi alleno dopo. Passa il tempo e poi magari non mi alleno. Invece ecco, organizzarsi tanto un orario preciso, anche se abbiamo tanto tempo, da quell'ora a quell'ora io mi alleno, mezz'ora, un'ora, quello che è. E questo è molto importante. E poi, ripeto, ci sono tante ormai opportunità di tabelle, di varie situazioni, di varie, ripeto, possibilità, trovi in rete, anche c'è una, ci sono pubblicazioni straordinarie, per fare in casa delle attività a carico naturale, quindi non c'è bisogno di pesi, perché in casa magari non ce l'abbiamo, ma nelle giuste posizioni, nelle giuste ripetizioni, davvero si può fare un buon allenamento. Fatelo, serve tanto, non in pigiama, una cosa che voglio dire, fatelo mettendovi la tuta, ecco, organizzate, non abbruttiamoci in pigiama con la vestaglia, ecco, non ammaneriamoci. Io vorrei solo svelare un piccolo episodio, se posso. Quando abbiamo fatto uno spettacolo, io e c'era anche Yuri, che alla fine è venuta una ragazza, è andata da Yuri, ha detto, tu Yuri sei simpatico, ma Leonardo ha un fisico migliore. Ecco, volevo solo dire questa cosa. E su questa, direi, su questa bugia del bugiardo patentato, direi che possiamo credere. Grazie, vabbè, Yuri Checchi, un grande abbraccio. Grande abbraccio al signore degli anelli. Yuri Checchi, che è stato con noi. Andiamo alto. Sei veramente, ha ragione Anacleto. Sei, tra l'altro dovremmo chiamarlo Anacleto sti giorni a capire come va in Toscana. Sei un bugiardo patentato. Va bene, guarda, recupererò quella ragazza. Sì, sì, certo, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Alessandro, mi devi fare un favore. Devi dire chiaramente alle persone che insistono col mettersi la mascherina in macchina da sole o in giro nei boschi da soli che quella mascherina così è solo sprecata. Il contagio viene solo se c'è un altro essere umano in tua presenza. L'aria non porta il virus. Non sprecate mascherine, già non ce n'è. Porca vacca. Per carità, non mi far dire niente sulle mascherine, che la gente mi tartassa perché in tempi un po' più non recenti, ma prima avevo detto cosa fate in giro con le mascherine, come nella situazione in cui ha detto l'ascoltatore, che non è carnevale. Le mascherine devono essere utilizzate da chi di dovere, ma non dico più niente sul tema. Questo anche i virologi sono un po' divisi, no? Cioè chi dice che comunque è bene portare utilizzarle sempre, chi invece dice che le devono portare solo quelli potenzialmente infetti, insomma non c'è, ecco, questa è una cosa che, sulla quale andrebbe fatto un po' di chiarezza. Sì, no? Però perché... l'ascoltatore ha ragione, se uno è in macchina da solo e porta la mascherina e non deve incontrare nessuno, ma se non devi incontrare nessuno, che mascherina porti? La mascherina, se non altro, serve se devi incontrare qualcuno, se no, se sei in macchina da solo e prevedi di non incontrare nessuno, dove se sei infetto spargi il virus su te stesso, se non hai niente, non incontri nessuno, non ti serve, e serve magari a un medico, visto che non ce ne sono abbastanza, questo l'abbiamo capito. Comunque, caro adesso, Leonardo, oggi mi farò le prime mie con la carta da forno, perché non ne ho più io di quelle, quindi quando vado riesco Ho visto che Barbara Palumbelli, per esempio, l'ha fatta in diretta con la pinzatrice, la carta da forno, gli elastici. Io non le trovo, non le ho per quando vado al supermercato, quindi me le faccio con la carta da forno. Ah già, è vero, attenzione, Leonardo Manera, il primo messaggio oggi di Radio Viale Monza è stato Leonardo fa la spesa, perché ieri ha condiviso sui social una drammatica, devo dire drammatica foto proveniente da casa sua, ha aperto il frigorifero e si è aperto il dramma, il vuoto, il vacuum, un grande abisso di nulla, una... no? E adesso che ti è rimasto? Il brillantante da bere. In questo momento nel mio frigorifero sono presenti due mele e uno yogurt. Non so se è il caso di... Scaduto sicuramente, e due mele mezze marce, non c'è dubbio. Vabbè dai, due mele e uno yogurt, fino a domani resisti. Ce la puoi fare. Ma scusami, non hai una scatola di pelati, un po' di riso, un po' di pasta? Sì, ce l'avrai. No, scusa se rido, non dovrei ridere. Si diverte perdono. Perché non ho i pelati, cioè, si può divertire così uno perché in casa non ho i pelati. Non ho i pelati, sono già io pelato. Una scatola di tonno ce l'hai? No. Dei fagioli, ho delle spezie, ho del peperoncino macinato, noce moscata, pepe bianco e anche dei pepe in grani scaduto, del riso, una cosa di riso anche basmati, no. O della farina bianca scaduta. Surgelati. Apri il freezer, avrai un pezzo di un pesce del 1984 che ti sei dimenticato. Allora, aspetta che ho il congelatore dell'84. Vediamo cosa c'è nel congelatore. Dai, apri il congelatore. Ho una cosa nel congelatore. Cos'è? Contorno vignarola, taccole, piselli e carciofi. Beh, ma è stupendo, verdure. Ma verdure fa bene, ma fino a domani sei a posto. Le taccole, poi c'è una roba anche rara, i carciofi, ma ottimo. Fino a domani sei tranquillo. Chi t'ammazza, cioè? Se lo dici tu. Che amarezza. Vai. Dio, che amarezza. Ora, siamo in attesa del picco, è da giorni che sentiamo in tutti i mezzi di informazione che il picco del contagio sta per arrivare, immaginando che poi, dopo il picco, potremmo ricominciare a essere un po' più tranquilli. D'altra parte, tutta la vita è sempre in attesa di qualche picco. Quando andiamo a scuola, alle superiori, aspettiamo il picco, che è l'esame di maturità. In amore, probabilmente, per chi si sposa, il picco è il giorno del matrimonio, che per alcuni invece coincide con il baratro. Quando si fa l'amore, trovare un picco comune di entrambi è difficile, complicato, magari non succede mai. Nelle riunioni condominiali il picco è sempre prima delle varie ed eventuali. Ma di solito il picco è il momento più importante, sia positivo che negativo, e tutti noi abbiamo avuto picchi di entrambi i tipi, picchi di gioia e picchi di infelicità. E allora, in questi giorni in cui si sta spesso a casa da soli, capita di ricordare episodi della vita. Ma il problema è meglio ripensare per rimanere di buon umore ai picchi positivi che magari non ci sono più, oppure ai picchi negativi che in fondo ci fanno apprezzare la solitudine? Insomma, nei momenti difficili è meglio ripensare alle cose belle oppure a quelle brutte della vita per consolarci nel presente? In generale io credo che pensare alle cose belle che non ci sono più crei grande amarezza, quindi meglio ripensare alle cose brutte che abbiamo superato e che ci daranno forza per ricominciare. Quindi, in questi giorni di tempo sospeso, per darci la forza di ricominciare, io consiglio di pensare, per esempio, ad appuntamenti dal dentista in cui siamo stati oggetto di dolorose estrazioni o devitalizzazioni, a quando ci abbiamo provato con qualcuna o qualcuno che ci piaceva e abbiamo ricevuto un doloroso due di picche, anzi di picco, a quando i nostri genitori da ragazzi ci chiudevano in camera a studiare per giorni perché andavamo male a scuola, se siamo separati a quando il giudice ha stabilito l'entità dell'assegno di mantenimento, se l'età ce lo permette a quella volta quando abbiamo fatto 11 al totocalcio, a quella ragazza che desideravamo al liceo e si è fidanzata fissa con un nostro amico e si baciavano davanti ai nostri occhi, a quando il giorno di Natale abbiamo ricevuto regali brutti, a quel giorno in cui abbiamo cercato di vestirci bene e non lo ha notato nessuno, a quella volta che ci è caduto il telefono nel water, oppure a quella volta che hai detto a una ragazza in discoteca «bevi qualcosa» e lei ti ha risposto «no, il mio ragazzo fa il barman». Tutti episodi che in periodi normali ci farebbero immalinconire, ma che ora ci fanno pensare di aver già vissuto in passato momenti difficili. Insomma, pensare al peggio che c'è stato prima ci fa sopravvivere al peggio di adesso per stare in equilibrio e ricostruire le nostre corazzate ormai ma fragili vite. Finito! È stato fal barman! È meravigliosa, cioè è il picco dell'amarezza in discoteca, proprio il picco del picco. Vabbè, sentiamo Giovanni da Pavia. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. Allora, io purtroppo non sono uno di quelli che deve stare a casa, ma purtroppo io lavoro in prima linea e sono un operatore di polizia locale. Vi posso garantire che la gente non comprende la gravità della cosa. Ce lo fa capire con qualche esempio? Che cosa ne hanno detto, per esempio, alcune delle persone che lei avrà fermato? Guardi, sono delle scuse quasi tutte infantili. Non c'è una vera necessità nell'uscire. Io invece avrei una proposta, siccome poi alla fine... andare nel concreto. Mm-hmm. Cioè, la gente che viene pizzicata fuori dalle quattro opzioni rischia una denuncia. Alla fine poi comunque è... Pronto? Sì, sì, sì, prego, prego. E quindi? Sì, ok. Allora io proporrei a queste persone che... di fare 15 giorni di volontariato in quelle attività dove adesso sono in sofferenza. Guardi Giovanni, è una proposta che è arrivata via mail, anche un ascoltatore un po' suona da gogna, però anche un ascoltatore via mail ci ha detto esattamente questo. Invece di dargli una multa, perché non gli mandiamo 15 giorni a fare volontariato obbligatorio in uno di quei reparti dove ci sono le persone che soffrono? A volte il senso è proprio questo, uno finché non ci sbatte la faccia non capisce. Comunque andiamo al giornale radio, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 fino alle 10.30, dopo... State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100.000. Alessandro, per favore, almeno tu fammelo dire che c'è troppa gente nelle fabbriche che lavora, in Lombardia è pieno. La gente che fa il furba, che va in giro, è da condannare e va bene, ma c'è troppa gente nelle fabbriche che produce cose che non sono essenziali. Ho clienti che hanno 200-300 dipendenti che lavorano in una volta sola. E lì il virus si propaga, è inutile non dirlo, si propaga, dobbiamo fermarli. Allora, questo è un ascoltatore con cui iniziamo la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Allora, caro Leonardo Manera, qui dalla diretta di Viale Monza è successo questo durante il giornale radio. Mi affaccio perché sentivo delle urla, mi affaccio al balcone, c'era una signora che passeggiava, che camminava per il marciapiede e uno dall'alto che gli urlava «Vai a casa! Vai a casa!» E quindi adesso c'è chissà perché questa signora era per sei là perché balbetta. Aspetta, ricollegati perché non si sente che balbetti. Comunque è stupenda questa cosa. Cioè, poi ho visto alcuni in fila davanti alla farmacia, alcuni altri che sono in fila davanti qua al supermercato sotto casa. Ma questa scena è meravigliosa. Adesso ci sarà anche la rivolta di gente contro gente, Leonardo. Che dici? Vai secondo a me casa. Il problema che diceva prima l'ascoltatore è reale, nel senso ci sono tantissime imprese che continuano a lavorare senza produrre beni primari. Poi non è che una persona che cammina, secondo me, è la responsabile di tutto, certo, il caos, certo. Bisognerebbe sapere poi perché è in giro, altrimenti si crea un clima a lavorare, ma dico, sì, a lavorare. Altrimenti si crea un clima veramente terribile, no? Questo sì. Allora, ascoltatore, qualche ascoltatore, voglio dare la precedenza, lo saluto a Michele da Codogno, perché Codogno è questa città che tutti abbiamo imparato a conoscere come epicentro, no? Del paziente Mattia, paziente 1 che peraltro ora sta meglio, lentamente si è ripreso. Michele, buongiorno. Buongiorno Alessandro, che fra l'altro anche conosco perché il resto della mia famiglia vive a Castiglione d'Adda e quindi conosco benissimo la situazione. Niente, io sono un camionista, ho 57 anni, sono di Codogno e sto lavorando trasporto alimentari. Adesso stavo facendo da Cremona verso Milano, sono fermo a Pantigliate praticamente, perché ho ricevuto la vostra telefonata. E stavo dicendo alla vostra collega che per me il problema quando è nato era tenere a bada i miei ragazzi. Ne ho 3, 14 anni, 19 e 22. E quindi pensavo che doveva essere abbastanza duro, invece no, bastata una minaccia del tipo vuoi ammazzare la nonna, vuoi ammazzare il nonno, vai pure in giro, che se ne stanno tranquillamente a casa, e anche se diciamo che siamo quasi al limite, soprattutto mia figlia, certo, che vive con me a Codogno, noi abbiamo iniziato molto prima e quindi è stata molto dura. E ci vorrà però purtroppo io... Michele ancora un po' di tempo, non è mica finito. Ma io quello che noto purtroppo, e lo diceva anche la sua collega ieri sul Piemonte verso Torino, sono i nonni sono in giro. I nonni sono in giro. Gli anziani sono in giro. Ragazzi, c'è un anziano che è stato pizzicato, per carità, sono anche storie singole che quindi fanno notizia, che è stato pizzicato a 83 anni, credo, dalle parti di La Spezia, l'hanno beccato e ha detto ma io se muoio tanto non mi importa. Così ha risposto Leonardo, tanto io se muoio non è importante. È quello che dicevamo ieri, che per alcuni anziani morire di coronavirus è meglio che magari morire di solitudine. Bisognerebbe far capire anche a loro che c'è un'emergenza nazionale in cui bisogna sacrificarsi un po', insomma, per gli altri. Che poi ci sono anziani e anziani, abbiamo avuto l'onore e il privilegio di iniziare la trasmissione con la mamma di Mario Calabresi, Gemma Capra, che ha detto io sono anziana ma sto prendendo estremamente con serietà tutta questa vicenda e sto rinchiuso in casa. Michele, cosa si potrebbe fare con gli anziani, i nonni, per convincerli a stare a casa? Catapultare la frase uccidi il nipote non è possibile, troppo. Non ho idea, perché ieri proprio... litigavo con 3 nonnini seduti nella panchina prima di, adesso non mi ricordo il paesino, penso Carmagnola, sì, no? Sì. Che parlavano, io ero lì fermo perché stavo facendo la sosta, sono andato via, ragazzi, dovete andare a casa, mi hanno massacrato di parole, solo il passaggio di una pattuglia li ha terrorizzati, se no non gliene fregava proprio niente, proprio li vedo. Certo. I ragazzi, io devo dire, non voglio adesso dire perché sono papà di 3 ragazzi, però in giro non ne vedo. Sì, forse i ragazzi hanno capito con grande sacrificio che lo devono fare per il proprio futuro, per il futuro degli altri. E effettivamente molti anziani che dicono magari ma a me resta poco da vivere, ma chi se ne frega, e però capisco, però è sbagliato. Sì, è anche triste che vadano verso questa forma di eutanasia alla fine. Sì, cioè, però ragazzi, stiamo parlando forse di un mese, 2 mesi, cioè se è proprio sì, ma due vuol dire, mesi, sì, due certo, mesi. Però vuol dire che al di là di se tutto siamo ligi. Sì, però vuol dire che c'è un grande malessere sociale sottostante, cioè di persone, di anziani che si sentono soli, che non hanno alternative di vita, allora dicono se muoio anche così va bene. Questo alla fine dà il segno di un'Italia in difficoltà. Comunque, No, no, ma grazie a Michele per questa testimonianza e anche per il lavoro. Ripeto, tanti ci stanno chiamando autotrasportatori che trasportano i generi alimentari che noi poi troviamo grazie a loro nei nostri supermercati. Massimiliano da Milano, buongiorno. Buongiorno, io sono un tecnico e voglio dare il mio saluto a tutti i tecnici che sono in giro per lavoro come me a riparare i carrelli e elevatori per i supermercati. Io telefonavo in merito a questo. Siccome sentivo che una delle proposte che volevano fare era quello di ridurre anche gli orari dei supermercati, io invece, proprio perché vedo un sacco di code in giro davanti ai supermercati, mi auguro che invece propongano di fare i supermercati in questo periodo H24, perché sì, così sì, forse si riescono a defluire di più le code, perché ci sono veramente delle code pazzesche. Lei ha ragione, Massimiliano, cioè il tema, se riduciamo gli orari dei supermercati la gente si ammassa ancora di più ai supermercati. Sì, d'altra parte, è una misura incomprensibile. È una misura incomprensibile. D'altra parte, nel momento in cui lo diciamo, io sento già l'eco di tutti coloro che lavorano, cassiere, cassieri, responsabili dei reparti, che dicono: lavora te H24, i diritti sindacali, i turni, e come dire. Da ogni parte da cui la vedi tutti hanno ragione, forse purtroppo bisogna mettere la ragione della maggioranza davanti alla ragione della minoranza dal punto di vista numerico, non che non contino le persone, però se tu fai supermercati aperti 4 ore, in quelle 4 ore o 8 ore saranno ammassati le persone io non capisco perché si pensa che riducendo l'orario si riduca anche il contagio, quando è evidente che sembrerebbe almeno il contrario. Questo per me, perché vorrebbero ridurlo il sabato e la domenica, dove molta gente poi, per non sapere cosa fare, dice: vado il sabato e la domenica. Le famose chiusure, ti ricordi quando Di Maio proponeva le chiusure della domenica? Ecco, forse ci arriviamo, anche se per motivi diversi da quelli portati avanti da Di Maio. Ce la facciamo, Antonino da Napoli? Se è rapido, gli chiedo un attimo di essere conciso, così andiamo al traffico. Antonino. Allora, concisissimo. Io vorrei fare una considerazione che deriva da un'esperienza personale, brevissima. Io, per motivi di salute, ho dovuto sopportare 18 giorni di terapia intensiva. Mm-hmm. La considerazione che faccio riguarda la professionalità estrema dei medici e del personale paramedico, che è dotato di grande carica umana. E vorrei, su questa mia esperienza, lanciare, se possibile, un appello a quelli che sconsideratamente continuano a camminare per le strade. La terapia intensiva è brutta da un punto di vista fisico, ma soprattutto da un punto di vista psicologico. E io avevo la possibilità di avere anche le visite dei parenti, che purtroppo in queste condizioni non sono possibili, il contatto diretto con gli infermieri, che non è possibile nemmeno in questa situazione, perché devono proteggersi ovviamente con tutti gli strumenti tecnici che impediscano il contagio. E quindi volevo dire alle persone di stare in casa, perché in questo momento... Perché lei l'ha provata. Io l'ho provato e so bene che è dura, durissima. Quindi... Antonino, io la ringrazio, è un messaggio molto efficace, ripeto, conciso, ma dire io ci sono stato in terapia intensiva, vi assicuro che è una cosa brutta e posso immaginarlo, e quindi state a casa, che è meglio non rischiare di finirci. Andiamo a sentire il traffico. One Express, il pallet express. Vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan. Caro Alino, volevo sottoporre alla tua attenzione il momento talmente epico che noi abitualmente distinguiamo i periodi storici in prima di Cristo e dopo Cristo. Adesso invece sarà prima dell'epidemia e dopo l'epidemia. È un po' è così, un po' è così, adesso non vorrei essere così tragico, ma ci sarà un primo dopo. Ante-Covid e dopo-Covid. Dopo-Covid, effettivamente. Allora, io però vorrei adesso concentrarmi con il prossimo ospite su una categoria che non si capisce bene se viene sottovalutata, eppure si tratta dei 2 milioni di persone stimate, cioè parlo di collaboratrici domestiche, babysitter, persone che lavorano nelle nostre case, aiutano gli anziani, fanno i lavori di pulizia, insomma. Saluto Andrea Zini, che è vicepresidente di Assindat Colf. Buongiorno, buongiorno Zini. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Che rappresenta, insomma, i datori di lavoro di tutte queste persone che sono state di fatto escluse da questo decreto Cura Italia. C'è un articolo in cui si dice che si fa riferimento a loro con un reddito particolare, però di fatto ci sono 2 milioni di persone che rischiano di perdere il posto di lavoro. Sono stime esagerate, Zini? Beh sì, intanto sono esagerate, il potenziale è quello, però dobbiamo essere, non diffondere panico, voglio dire. Intanto certo. Ci sono poverette 1.200.000 di queste persone che non hanno un contratto regolare di lavoro, lavorano in nero, proprio perché certo. È una categoria dimenticata dalle istituzioni. E qua ci tengo a sottolineare una questione: noi rappresentiamo le famiglie, non può essere chi si rimpalli il problema della colpa del nero o alle famiglie o al lavoro. È una colpa delle istituzioni che non intervengono e quindi non creano quei meccanismi di interesse reciproco ad essere regolari come tutte le altre aziende. Parlo della deducibilità sì. del costo del lavoro, ma non è il tema di oggi e quindi non vi voglio tediare certo, su certo. questo tema. Quindi 1.200.000 di queste persone, e ne parleremo dopo, di striscio, sono esclusi da qualsiasi provvedimento perché non sono in regola. Altre 800.000, 865.000 per l'esattezza, sono registrate all'INPS e sono in regola e quindi rientrano in modo un po' particolare e non protettivo nel decreto Cura Italia. Cura Italia, come, sì. Come ha detto lei, siamo ricompresi nell'articolo 43, direi, quello del reddito sì, sì. di ultima istanza, che già la dice lunga. Sì, certo, cioè, l'importanza delle parole, reddito di ultima istanza. Cioè, esatto. Non so già cosa vuol dire secondo voi, cioè, dopo quello non lo sappiamo ancora perché è devoluto a un futuro decreto del Ministero del Lavoro che speriamo ci convochi, ma sicuramente sì. sarà un ammortizzatore più debole non solo della cassa integrazione o della cassa integrazione in deroga dalla quale ci hanno esplicitamente escluso, quindi secondo noi era quello il nostro contenitore, perché se tu dici non rientri in quello vuol dire in modo esplicito, vuol dire che se non lo scrivevi eravamo lì. No, perché diciamolo, c'è proprio un articolo specifico, un comma di un articolo specifico 22 del Cura Italia che dice sono esclusi i datori di lavoro domestico, cioè proprio hanno escluso e l'hanno messo nero su bianco che in tutti questi provvedimenti ci sono i datori di lavoro domestico e parliamo appunto di 2 milioni di persone di cui 865.000 regolari. 2 milioni presi. E mezzo di famiglie, perché le famiglie sono di più, alcune cose lavorano per più di una famiglia, quindi certo. le famiglie interessate sono. Se poi facciamo un esercizio matematico, 2 milioni di lavoratori, 2 milioni e mezzo di datori di lavoro, 4 milioni e mezzo di famiglie tra gli uni e gli altri, moltiplicato per 2,1 che è il valore medio dei componenti di una famiglia, arriviamo quasi a 10 milioni di cittadini italiani. È un problema che interessa direttamente e indirettamente un sesto della popolazione italiana. Quando si dice, Leonardo, alla fine raccoglieremo i cocci finiti nell'epoca, come ha detto l'ascoltatore, dici dopo Covid, raccoglieremo i cocci anche di questo. Non so quanti collaboratori domestiche, quanti collaboratori rimarranno. Quelli irregolari, per esempio, uno approfitterà a dire via, ciao, no? Forse. Allora, guardi, questa era quella toccata di striscio che dicevo prima. Due fenomeni: o verranno lasciati a casa come accade a molti perché c'è la paura della famiglia, c'è la paura del lavoratore di prendere il contagio, ma quando sono veramente necessari, sta accadendo una cosa particolare a Roma, stanno aumentando le assunzioni della nostra associazione. e uno dice perché? Questa è una cosa importante, cioè vuol dire che li regolarizzano invece che lasciarli a casa. Regolarizzano per paura o per, come dire, attenzione. Attenzione sperando che possano entrare in oggi o domani un reddito di ultima istanza, o se riusciremo ad avere la cassa in deroga nella cassa in deroga, ovvero perché per paura che nel tragitto casa-domicilio del lavoratore o viceversa vengano fermati per un controllo e dicano ma io sto andando a lavorare o sto tornando dal lavoro, indicando la famiglia. Noi infatti abbiamo detto a tutte le famiglie, non alle nostre iscritte, anche alle nostre iscritte, ma non con questo fine, guardate che se fermano il lavoratore, dichiara che sta andando a lavorare, sta tornando dal lavoro, dice solamente la verità. Quindi emergere per paura che ci sia un'emersione involontaria di un rapporto di lavoro in nero sanzionato, stanno regolarizzando. Purtroppo devo dire che a Milano è contrario, a Milano, a Milano invece, zona rossa, vicino alla zona rossa di Bergamo, di Lodi, eccetera. C'è il rischio che i rapporti vengano interrotti. Insomma, in questo mese di marzo la situazione attualmente è di una stasi delle assunzioni, meno 50% di assunzioni, che sono frizionali, ci sono molti rapporti che durano poco e quindi vanno avanti e indietro da una famiglia all'altra questi lavoratori, ma soprattutto c'è una stasi perché, come in tutte le buone famiglie, il lavoratore diventa quasi parte della stessa e in questo mese di marzo stanno aspettando, non licenziano, però vedrà che se non ci sono ammortizzatori ad aprile questo succederà. Allora facciamo così, Andrea Zini, prendiamoci già un appuntamento di quando finirà tutta questa vicenda, così tireremo un po' le somme di questi numeri, visto che si parla di tante tante famiglie in tutto, se ho capito bene, circa 10 milioni di italiani. La ringraziamo intanto, Andrea Zini. C'è qualcuno per esempio che aveva bisogno di dare una mano a Manera per fare la spesa, no? Visto che tra l'altro, guarda Leonardo, arriva un messaggio, un ascoltatore dice: sono andato a Corsico, evito di dire la catena commerciale, comunque un grande supermercato, sono tornato a casa perché c'era una fila infinita e ho rinunciato a fare la spesa. Sì, se la chiedi a casa non ti arriva più perché non ti arriva ci più, sono non ci orari più in cui c'è un po' meno gente in coda, per esempio subito dopo pranzo intorno alle 2 di regola c'è meno gente in coda, solo che se appunto riducono gli orari adesso si perde questo. Ma c'è Federico Taddia con i nostri giochi straordinari per chiudere. Il nostro Leonardo Manera deve farne almeno uno al giorno, ma che è una vergogna. Federico, assolutamente. Federico, eccoci qua, buongiorno a voi. Allora. Manera, sei pronto? Cosa ci propone? Sì, è prontissimo. Non prima so o poi se ce attaccare la fa. Prima, adesso vedo. Vabbè, ormai è stantia questa gag, vai. Partiamo come sempre con le Olimpiadi domestiche. Oggi tiro al piattello. Ok. E? Servono 5 calze e un piatto, meglio una scodella. Allora, il consiglio al padre di fare il portatore di piattello, quindi in Manera di turno, si deve mettere in piedi tenendo la scodella in testa. Quindi è facile, testa, no? Sì, lato, quindi problema, in equilibrio oppure la tengo con le mani? No, la puoi tenere con le mani, te lo concedo, con l'equilibrio mani, sarebbe troppo. A quel punto, a una distanza di 5-6 passi, c'è il tiratore al piattello, appunto, che sarà il concorrente, che con le calze deve raggomilottare, deve fare una pallina con la calza e prendere il piattello, cercare, visto che non rimbalza, non è una pallina, e quindi cercare di centrare il piattello e vedere quanti punti fa su 5 consiglio tiri. Consiglio nelle calze di casa Manera di mettere anche dei sassi dietro, che se uno sbaglia sbaglia tira un po' più basso magari. Calze pulite o anche già usate le calze? Se no mio figlio me le tira tutte in faccia. Secondo apposta. Me quelle non usate si appallottolano meglio, quelle usate, quelle sporche si appallottolano. Vabbè, tiro al piattello. Poi gioco di movimento. L'altro invece è il weekend, c'è un po' più di tempo, vi voglio consigliare questa cosa che parte sempre aprendo i cassetti. Sappiamo che ogni volta che si aprono i cassetti, insomma, le sorprese ci sono. Però vi chiedo dal cassetto di tirare fuori 10 fotografie che potete scegliere anche a casa, però 10 fotografie della vostra vita, del vostro passato, delle vostre vacanze, insomma 10 foto. E questo gioco si chiama fotoromanzo perché date le foto ai ragazzi, chiedete di costruire una storia con quelle foto usando i post-it per fare i dialoghi. Io l'ho provato con anche storie famose, con le favole per esempio, ho provato a ricostruire Cappuccetto Rosso, un classico, utilizzando le 10 foto che casualmente avete trovato. Esatto, vengono fuori storie molto divertenti, scatena nei bambini e nelle bambine la fantasia. già ridi questo perché... è bello, diciamo così, abbiamo tutto il weekend per farlo. Fede, come senti la sigla dell'Alpino che si alza? Vai. Vuol dire che siamo come sempre in chiusura. Federico, ti ringraziamo, ci ritroviamo settimana prossima, ritroveremo anche un Leonardo Manera con un frigorifero pieno, spero, forse, di brillantante. Se riesco a farmi la mascherina con la carta da forno. Vuoi dare il tuo ultimo messaggio alla comunità civile, aprendo la finestra e urlando al balcone? No, stavolta apro solo il frigorifero, lo guardo e dico, ma a lunedì.